Perché predicare l'Evangelo se gli uomini sono salvati senza di esso? Nell'ambito della fede cristiana vi sono due linee di pensiero contrapposte che nel corso dei secoli hanno diviso la cristianità, quella formata da coloro che credono che la salvezza sia una esclusiva opera di Dio e quindi che gli uomini siano predestinati alla salvezza, e coloro che credono che la salvezza sia un'opera di Dio, ma con la deliberata scelta da parte dell'uomo. In questo contrasto di idee vi è però un dato di fatto che è indiscutibile, e cioè che gli uomini prima di Cristo erano salvati anche senza l'attuale messaggio del Vangelo. Questo aspetto fa sorgere una domanda la cui risposta interessa ambedue i fronti, e cioè perché predicare l'Evangelo se gli uomini erano e sono salvati anche senza di esso? Dato che le risposte possono essere varie, qui di seguito ne elencherò 7. Risposte che si rivelano valide comunque la si pensi, e cioè bisogna predicare l'Evangelo 1 perché Cristo lo ha ordinato, 2 perché Dio ha stabilito di salvare l'uomo mediante la predicazione del Vangelo, 3 perché rivela il carattere di Dio, 4 perché rivela la giustizia di Dio, 5 per rivelare chi è il vero Dio, 6 perché i credenti con la loro santità frenino il peccato, 7 per completare il numero dei credenti che devono formare la Chiesa. Prendiamo in esame ogni aspetto. 1. Bisogna predicare l'Evangelo perché Cristo lo ha ordinato. Ciò che sfugge alla maggioranza delle persone, e a volte anche ai credenti, è che chi ha posto fede in Cristo è chiamato a ubbidire alla volontà di Dio, sia che essa sia comprensibile o meno. Prima salire in cielo, Gesù diede un ultimo ordine ai suoi discepoli: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Gesù aveva già detto ai suoi discepoli di predicare l'Evangelo, ma fino a quel momento esso era solo indirizzato ai giudei, mentre ora il loro maestro dava l'ordine di predicare l'Evangelo in tutto il mondo. Un ordine simile non può essere discusso dalla nostra teologia, non può essere invalidato solo perché ci poniamo delle domande, perciò chi ha posto fede nel Salvatore predica e deve predicare l'Evangelo perché Gesù lo ha ordinato. Se il credente è disposto ad ubbidire a cose che riguardano questa vita, a maggior ragione dovrebbe predicare il messaggio di Cristo, il quale produce frutti eterni. 2. Bisogna predicare l'Evangelo perché Dio ha stabilito di salvare l'uomo mediante la predicazione di esso. Nessun re è tenuto a spiegare i motivi dei suoi ordini, ma il re dei re ha spiegato pure il motivo per il quale vuole che venga predicato l'Evangelo. Paolo ne accenna nella sua prima lettera. Dov è il savio, dov è il dotto, dov è il disputatore di questa età? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. 1 Corinzi 1, 20-21. La riflessione di Paolo mette in evidenza che originalmente Dio non era costretto di salvare gli uomini tramite la predicazione dell'Evangelo, perché lui si era rivelato tramite la creazione e la coscienza. Ma poiché gli uomini hanno volontariamente rifiutato tale rivelazione, Dio ha usato un altro mezzo per rivelarsi in modo che gli uomini non avessero delle scuse. Dio si è manifestato storicamente tramite Gesù Cristo, ha vissuto tra gli uomini come un uomo, e alla fine sotto Ponzio Pilato è stato crocifisso per risorgere il terzo giorno. Poiché non sono favole, né miti questi fatti da 2000 anni, vengono annunciati affinché chi pone fede in essi riceva per fede la vita eterna. 3. Bisogna predicare l'Evangelo perché rivela il carattere di Dio. Nessuno può esprimersi in modo diverso da quello dettato dalla sua personalità. Un bambino non può esprimersi come un adulto, come un adulto non può esprimersi come un vecchio. Così, l'Eterno Dio nel rivelarsi e nel dare i suoi comandamenti contemporaneamente rivela la sua personalità e il suo carattere. A più riprese gli apostoli hanno detto: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Cristo Gesù ha dato la sua vita per noi. Si parla molto dell'amore di Dio, ma non era possibile portare un messaggio così profondo e preciso se noi non avessimo saputo che Cristo Gesù, pur essendo Dio, morì in croce. I cristiani non credono in un amore platonico della loro divinità, non Perché predicare l'Evangelo se gli uomini sono salvati senza di esso? Credono come i musulmani in una divinità misericordiosa e compassionevole senza averne un riscontro storico, ma i credenti in Cristo credono a fatti storici veramente avvenuti e questo è solo possibile mediante la conoscenza del messaggio del Vangelo. 4. Bisogna predicare l'Evangelo perché rivela la giustizia di Dio. Il messaggio del Vangelo non solo rivela il carattere di Dio, ma anche come egli abbia risolto il problema del peccato dell'uomo. L'Apostolo Paolo, che ha dedicato tutta la vita alla predicazione del Vangelo, diede questa testimonianza a Raso. Per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Romani 1 e un quarto, 17. Ancora una volta dobbiamo sottolineare che non è possibile conoscere come Dio abbia risolto il problema del peccato dell'uomo non conoscendo il Vangelo di Cristo Gesù, e cioè che Dio ha tollerato i peccati degli uomini commessi in passato per condannare il peccato una volta e per sempre sul corpo di Gesù quando moriva in croce, affinché chiunque crede al suo sacrificio sostitutorio riceva per grazia il perdono di tutti i peccati. Questa bella notizia è possibile solo se il Vangelo viene predicato. 5. Bisogna predicare l'Evangelo per rivelare chi è il vero Dio. La storia religiosa dell'umanità conosce molteplici categorie di persone che, a vari livelli e con diverse finalità, hanno preteso di rappresentare il volere delle divinità, sacerdoti, maestri, sapienti, indovini, stregoni, monaci, sciamani, come del resto anche varie religioni quali quella islamica, l'induista, quella del cattolicesimo romano, del protestantesimo e gli ortodossi. In questa pluralità di fedi e di portavoci della divinità è difficilissimo discernere la vera voce della vera divinità, e per questo il Dio vivente vero si è rivelato nella persona di Cristo Gesù facendolo risuscitare dai morti. Se il vero Dio è da tutti ritenuto onnipotente, eterno, non soggetto alla corruzione, vi è forse una religione o una fede che riveli l'eternità, l'onnipotenza e l'immutabilità? Come la divinità dei cristiani. Quale divinità si è assunta un corpo umano e morta e risorta e vive ora per intercedere a favore di coloro che hanno posto fede in lui? Mentre prima il vero Dio si manifestava tramite il popolo di Israele, ora con il messaggio del Vangelo fa sapere che non vi è altro Dio all'infuori di quello giudeo-cristiano. 6. Bisogna predicare l'Evangelo perché i credenti con la loro santità frenino il peccato. Indiscutibilmente il Vangelo ordina a coloro che hanno posto fede in Cristo di avere un cammino di santità. L'Apostolo Pietro così riassume il volere di Dio. Come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nelle ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. 1 Pietro 1,14 16. Essere santi non è solo un formale atteggiamento di un religioso che vuole piacere alla sua divinità, ma si tratta di un comportamento che produce un benessere nelle relazioni sociali, un benessere quale il non vendicarsi, il sopportare, l'essere onesti, leali, altruisti, fedeli e tante simili cose. Questi atteggiamenti sono la salute di una società, frenano l'inesorabile avanzare della delinquenza, dell'odio. La testimonianza della Scrittura non lascia dubbi. Or sappi questo. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. 1 Timoteo 3, 1 a 5. Coloro che odiano i cristiani e il Vangelo si rendono conto. 7. Bisogna predicare l'Evangelo per completare il numero dei credenti che devono formare la Chiesa. Perché predicare l'Evangelo se gli uomini sono salvati senza di esso? L'ordine di Dio di predicare l'Evangelo e di essere santi ha uno scopo che va oltre le realtà umane. L'Apostolo Pietro scrisse nella sua ultima lettera: «Poiché dunque i cieli e la terra devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio?» 2 Pietro 3, 11-12. È evidente che i tempi di Dio sono stabiliti da Lui, ma Pietro afferma che il giorno di Dio si può affrettare e questo è possibile se i credenti predicano l'Evangelo. Poiché la Chiesa è formata da un certo numero di credenti, chi pone fede in Cristo tramite il messaggio del Vangelo viene aggiunto alla Chiesa e prima questa viene completata, prima ritorna Cristo. Perché allora predicare l'Evangelo? Perché Cristo lo ha ordinato, perché Dio ha stabilito di salvare l'uomo mediante la predicazione del Vangelo, perché rivela il carattere di Dio, perché rivela la giustizia di Dio, per rivelare chi è il vero Dio, perché i credenti con la loro santità frenino il peccato, per completare il numero dei credenti che devono formare la Chiesa. Ragioni più che valide per ubbidire a Cristo Gesù. Dicembre 2005. Ellero. Perché predicare l'Evangelo se gli uomini sono salvati senza di esso?